con la bocca sporca di sangue, con brandelle di carne ancora fra i denti. L'orgasmo del possesso sta ancora accarezzando gli sensi. Come può Dio avere creato un animale così bello e feroce e letale? Dio avere creato anche il dolce e tenero agnellino che ti scalda il cuore e ti chiede protezione? Come può lo stesso Dio avere messo la loro essenza nella stessa persona? Bellezza oscura e perversa, ma anche gentilezza che cerca aiuto nella sua preda. Nella foresta della notte, con la bocca sporca di sangue, e tu strisci per terra con il viso tumefatto e un altro pezzo di cuore strappato al petto. Questo avrei voluto dirti, amica mia, ma non ho fatto in tempo.